Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Hamburger, dici? La colonna portante di ogni colazione vitaminica. Se faceva l'idraulico, lui era ancora vivo, ma ha deciso di fare il ladro ed è morto. E oggi, senza di lui, il mondo è un posto migliore. Punto. Allora, se siamo 10 in casa ed entra il ladruncolo, devo scegliere le armi. Ma oggi i nuclei familiari sono fatti spesso da una donna e un bambino. Se io sento qualcuno che entra a casa mia, come quel signore lì, io apro il fuoco. Punto. Contro vita non c'è dubbio, autodifesa, legittima difesa piena. Averi contro vita no, se no non siamo né allora più cristiani né più umanisti laici. Allora siamo di nuovo nella barbarie, non e ci allora si può in alcun modo mettere sullo stesso livello, non si uccide chi ruba, lo si mette in galera. Non è possibile uccidere per difendere la proprietà. Se entrano in casa mia, se entrano in casa mia alle tre di notte, scusatemi, cioè, questo paone, se entrano in casa mia alle tre di notte e non sono invitati, lei per mestiere fa questo, io faccio un altro mestiere, mi faccia punto, finire, punto. Ho detto. Oh, il solito dibattito sulla legittima difesa che c'è, legittima difesa, eccesso di legittima difesa. Hanno dibattuto e dibattono da 3 giorni sui giornali dopo che si è scoperto, tra l'altro, che questo ultimo ristoratore a Lodi, c'è una testimonianza, dice ha sentito due colpi d'arma da fuoco. E si dibatte lì perché, per esempio, in aula alla Camera non hanno dibattuto molto sul biotestamento, sul testamento biologico, perché lì certo era la discussione generale, per carità, non facciamo troppo qualunquismo, però erano in aula, credo, in 20, ma come tutte le polemiche poi in aula in 20. Era lunedì, c'è da dire, quindi lunedì si sa la Camera. Il venerdì si sa la Camera. Settimana cortissima. Allora, signori, voglio ricordare che in questo momento sono le 6:32 minuti. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione, saluto Peter Bescapè in regia. Questo è 24 mattino e in questo momento ci sono a Piombino 5 gradi, poco nuvoloso, ci fa sapere Davide, che però è di Pisa. Mentre 11 gradi a Sanremo. Meno un grado a New York, ci sta ascoltando da lì New York, si prevede una tempesta di neve. A Palermo ci sono 12 gradi in questo momento. A Milano 8 gradi, questa mattina. A Borgo Virgilio Mantova 7,8 gradi, mentre a Ferrara 3 gradi. A Roma Piramide 7 gradi, mentre nella Valle Agordina, Belluno, 1,6 gradi e cielo terzo. Mentre infine a Rodeano Basso 4 gradi. È il momento, d'altronde, più apprezzato dal nostro scrittore preferito, Mauro Corona. Buongiorno! Buongiorno a voi, e i gradi. Mauro Corona odia questo momento come se fosse il momento più inutile di tutta la programmazione di Radio 24. Non vuole che gliene freghi alla gente quanti gradi sono in albero, ma serve veramente, impiegate questo tempo per dire delle cose. Vabbè, ma ho detto delle cose inutili. Come di, almeno dite che in quel paese lì c'è una sagra della polenta, almeno la gente va a fare qualcosa. No? E vedi, l'ha detto lei, per esempio. Quando è questa sagra della polenta? No, non c'è, ho detto lì, nell'ipotesi in sostituzione dei gradi, a Pordenone 3 gradi, ma chi gliene frega, nessuno. No, lo so, se uno a Pordenone deve sapere se mettere la sciarpina pesante. Ma lo sa lui, se no che s'arrangi, dobbiamo educarli ai gradi, educhiamoli a qualcos'altro, alla tolleranza, alla carità, alla generosità. Va bene. A mettere la sciarpa. Ecco, va bene. Avete capito, insomma, il clima a proposito di gradi, e questo insieme a Mauro Corona. Voglio salutare Flavia Perina, caro Mauro Corona, presento Flavia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Pronta, perché questa è quanta... Sì. No, stavo dicendo quanti gradi ci sono a Roma. Sì, però hai detto Roma Piramide, non l'hai detto Roma Nord, Roma Montemario. Perché io a Montemario non so se devo mettermi la scarpina. L'ascoltatore ci segue da Roma Piramide, quindi dice così. Ecco. Allora. Qua più o meno comunque ci saranno 9-10 gradi, fa un po' più caldo che a Roma Piramide. Ah, ok. Strano, avrei detto Piramide, ci sarà più caldo. Vabbè, dai, basta. Questa è pessima con gli egizi. Allora, dai, apriamo il Parlamento, su, perché voglio... Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene. Voglio chiedere subito a Mauro Corona, perché, ragazzi, sì, non se ne può più. Da 4 giorni si parla di questa cosa della legittima difesa. Tutte le volte il cliché è uguale. C'è un fatto di cronaca, via, si aprono i talk show, c'è chi dice uccidere, sparare, non sparare. Mauro Corona che diciamo le armi le ha, sì, le ho, non perché sia un appassionato di armi, l'ho ereditate da mio padre, morto, era cacciatore. E quindi qui bisogna vedere la situazione. Allora, premetto che avere sulla coscienza una persona uccisa da me sarebbe un peso molto... Quindi bisogna vedere la situazione, perché se io ho qui 3 figlie e vengono questi, lì dico ragazzi rubate quello che volete, ma se poi aggrediscono le figlie ti viene istintivo, casomai sparerei nelle gambe, non me la sento sparare al petto di una persona. Ma uno magari nel parapiglia, nella confusione, non è che è in grado di capire. Nel parapiglia non esiste il parapiglia. Da lontano dico ragazzi fermi, rubate le robe, se aggredite lì vi tiro un colpo nelle gambe. Ma ci potrebbe essere un'altra soluzione al posto delle armi, che sono molto pericolose, anche di quelle pistole a scarica elettrica, che stendi un vitello, stendi un buco e li rimangono vivi e rimangono per terra. Potrebbe essere una soluzione, l'arma è molto pericolosa. Il taser. Ripeto, dipende dalle situazioni, perché se io mi trovo di fronte a questi, perché ci sono successi anche casi che li hanno picchiati inutilmente, hanno picchiato dei vecchi per il sadico gusto, allora lì forse premo il grilletto, ma non nel petto, nella testa, tirerei nelle gambe intanto. Nelle gambe. Ecco, questo... Questa è la lucidità estrema di chi immagino in questo momento. Sì, perché insomma bisogna essere lucidi. Uno che ha portato d'armi è sottoposto anche a un esame, si ha la testa a posto, poi lì c'è anche questo far westismo, no? Sparo. Sparare a uno. No, non è poi così semplice sapere che io ho ucciso un uomo, No, questo no, questo sicuramente. Ma infatti questo ristoratore lo dice, vivo questo momento. Lo può anche dire a sua discolpa a un certo punto, però lì c'è un colpo alla schiena. Allora, o mentre lottava con uno gli è partito il colpo e ha preso quello davanti, che fuggiva, può essere anche così, ma lì c'è un colpo alla schiena, i colpi alla schiena hanno sempre qualcosa di dubbio. Di dubbio. Poi addirittura sarebbero 2 colpi, questo almeno secondo una testimonianza. Sarebbe una cosa in più. Però non so, Flavia Perina, qui la questione è che ci sono sempre queste leggi. Ecco, usiamo Flavia Perina come ex parlamentare, così la critichiamo un po', facciamo un po' di demagogia. Oggi Flavia Perina è nuovamente una parlamentare, è una ex parlamentare. No, scherzo, perché vorrei mettere insieme anche questa storia del biotestamento che ci devi spiegare, cioè l'assenza di tutti i parlamentari. È che anche sulla legge legittima difesa si cambiano le leggi, ma c'è un po' di confusione. La gente pensa che è stata cambiata la legge di recente dando licenza di sparare a chiunque, invece non è così. Cioè... No, la legge è molto chiara, il problema è che qua si chiede da più parti che non ci sia nessun tipo di legge, perché non si capisce neanche che legge si rivendica. La richiesta è quella che se uno spara non si deve neanche indagare, perché a quanto pare tutta la polemica è sul fatto che questo ristoratore sia stato sottoposto a un'indagine per capire in quali circostanze ha sparato, se ha sparato per difendersi, se invece come... qualcuno comincia ad adombrare, è stato lui a uscire di casa e a inseguire i ladri che scappavano sparandogli. Sì. La richiesta di qualcuno è che non ci sia la legge, cioè regolatevi come vi pare. E questo che poi di qualcuno, politicamente, dai, diciamolo, della Lega, della destra, di una certa area di destra, però io vedo anche la sinistra molto intimidita, non ha il coraggio nessuno a sinistra di dire chiaramente... comunque una legge va applicata, comunque un'indagine va fatta, comunque bisogna scoprire con esattezza che cosa è successo prima poi di sciogliere una persona oppure di mandarla a processo. Qua si contesta proprio il principio che ci sia un'indagine. Sì, cioè entra uno, spara, come in America, entra uno, proprietà privata, sparo, non rompetemi le scatole. Anche in America fanno un processo, comunque, anche in America se ci sono delle situazioni dubbie viene aperta un'indagine. Poi le indagini talvolta finiscono con... il proscioglimento di chi ha indagato, sì, come è successo al signor Sacchio, che si è indagato e è stato prosciolto. Altre volte invece finiscono in un'altra maniera, perché è giusto che finiscano così. Sì. Però non lo so, Corona, la questione è: se entra qualcuno di notte, sparare alle gambe, se però minacciano le figlie lì, allora le devono anche aggredire, non solo minacciare. Sì, certo. Però la legge, come fa... io sono d'accordo con in linea di idea che casa mia. È come nei cortili quando si mette la tabella attenti al cane, ho visato. Quindi in linea di massima l'idea è giusta, casa mia non devi entrare, lo diceva ieri, non so, Sgarbi mi pare, non devi entrare, se entri sai che puoi rischiare quello. Sì, sì. Ma è troppo semplice tutto questo discorso, perché poi insomma... allora facciamo questa legge che chi entra nella proprietà altrui può essere ucciso, ma la faccia fatela. La cosa, non credo sia un deterrente, ma potrebbe essere un deterrente, perché quando io so che se entro da lei mi fa fuori, ci metto di più a entrare, no? Sì, sì, sì. Rifletto di più. Ma questo è una Corona, legge... però questa non era una casa, era un negozio, Ma sì, un negozio casa privata, perché lui abitava sopra. No, la privata è privata, sia un negozio, un bordello, è casa mia. Un bordello. Cominciamo a vedere se c'è un negozio, se comando io lì. E non devi entrare, e se entri sai che qualcuno può rischiare di spararti, punto. Questo succede ma c'era un cucù che suonava da qualche parte Sì, è un orologio cucù, ma presto canta quello vero, fra 20 giorni. Ma che ore canta quello? Ma che ora fa, le 6:40? Perché no, si è sballato un po', a me basta sentire il suono. Non mi interessa l'ora, la conosco l'ora. Però io mi immaginavo Mauro Corona che ascoltasse il suono del cucù vero, cioè non... Ma la canta fra 20 giorni, mica canta d'inverno ancora. Anch'io ignorantone di città, sì, mamma mia. Ma non la città, la proprio le scienze naturali, non sapete nulla. Flavia Perina, non sai nulla, hai sentito? No, io ho le cornacchie. No, eri tu del cucù. Quelli cantano tutto l'inverno, purtroppo, gracidano tutto l'inverno. Gabbiani. Sì, no, Gabbiani, la questione però vera, scandalosa secondo me, è che discutono del biotestamento, tutte queste cose, e poi quanti erano, Corona, a discutere ieri alla discussione? Credo una ventina. Sì, era lunedì. Loro abbaiano, abgracchiano, visto che Perina mi ha accennato le cose, gracchiano di cose per ottenere quel voto, ma alla fine non sanno nulla. Nulla. Non fanno nulla, siamo veramente all'età del bronzo di fare le leggi che servono alle persone, servono a chi vive, a chi abita in Italia. Sì, ma questa, infatti, Flavia Perina, ma sarà una legge che riguarda tutti, ma anche loro riguarda. Oh, ragazzi, sì, ma la verità è che alla Camera, quando non ci sono votazioni, mai votazioni. Le persone, va chi è strettamente interessato al dibattito, chi deve intervenire, ma molto spesso ci sono pochissime persone. Poi l'aula si riempie quando si deve votare. L'importante di questa legge adesso è vedere se la votano, sì, oppure, e come? Se per oppure se per l'ennesima volta viene magari rimandata in commissione. Ma la verità è che se passa la Camera verrà bloccata al Senato e poi la legislatura più o meno finisce, perché prima o poi finirà, e quindi anche stavolta non ce la faremo. Cioè, ve lo dico già adesso, non ce la faremo ad avere una legge. Poi non entro neanche in discussione su quale legge. Ma questo è assolutamente probabile, ma tutte queste leggi vivono in questo ping pong, non per i regolamenti o per altri motivi, perché i partiti che non sanno come spicciarsela si fanno fare avanti e indietro e aspettando che l'opinione pubblica se ne scordi. Ma infatti questo è capito, Corona, non succederanno, non avremo la legge sul biotestamento prima della fine della legislatura. Ma ha detto bene il signor Peri, non sanno che pesci pigliano, hanno idee, ma perché l'Italia va in malora? Perché votiamo gente che perché non beve, non fuma, non fornica, va a messa la domenica, ma non hanno idee, si vogliono idee, e siccome non hanno idee si baraccamenano, intanto il tempo passa, le cose si dimenticano. Sono mancanza di idee che hanno fatto il disastro. Le idee mancano, ma ce l'ha un'idea Corona su questa cosa del fine vita? La mia vita è mia, che non mi vengano a dire i vescovi e cardinali e affini e ordini religiosi che la mia vita è sacra per me. E quando io ho assistito a un amico 62 giorni di tormenti che non faceva più nulla, neanche la morfina. E gli dicevo al primario, ma fate qualcosa, non si può, la mia vita è mia, ho già disposto io chi mi deve far fuori, casomai mi trovassi in condizioni di non vita. Ma com'è chi va far fuori? Sì, non si può. Cioè, in Svizzera, vai in Svizzera. In questo caso la legge me la faccio io. Perché il mio corpo, la mia anima sono miei. Ho capito, ma quello che pone fine alla vita non vorrà mica che le riveli il nome. No, certo, ma voglio dire, anche perché rischia l'omicidio. Mica lo fa, fin di lui sto uccidendo Corona, no. Io mi troveranno morto quando non avrò più forza, che non avrò più respiro, che non saprò più mangiare, che non saprò più connettere. Mi troveranno morto. Non sarò morto in maniera naturale, ma avrà fatto fuori qualcuno. Senza andare in Svizzera. La mia vita non può dipendere da Giovanardi, dagli Adinolfi. La mia vita è mia. È mia. E ne dispongo come mi pare. Questa è la posizione di Mauro Corona. Allora, andiamo un attimo al traffico, poi rientro, poi Corona, Perina, dobbiamo parlare un attimo del ritorno di un amico di Corona, Matteo Renzi, che insomma è tornato tra poco. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta. Stamattina mi sono alzato con un dolore al ginocchio e ho pensato, benissimo, rigore per la Juve. Rigore è quando arbitro fischia per la Juve. Del Rio è innamorato di Renzi. Ma non è che il Lingotto era per caso una terapia di gruppo? Qui erano i renziani anonimi, secondo me. Toglieteli il vino, Renzi! Bolla mediatica del nulla rilucente che al Lingotto si è esibito in maniera assolutamente icastica. Devo provare a spiegare che il nulla lucente, che è ovviamente il renzismo, ha delle alternative dentro il Partito Democratico. Il nulla lucente, secondo Emiliano, questo è bella questa immagine. Cioè no, adesso dico bella, adesso mi criticano. Bella dal punto di vista letterario, Corona, il nulla lucente. Cos'è? Il nulla eclatante, lucente è un aggettivo molto molto bello, non lo merita. Diciamo il nulla nebuloso. il nulla nebuloso. Lucente è una bella cosa. Ma lì sta provando a rinascere, sta provando Renzi, perché vuole vendicarsi. Ma sarà, ma... però almeno questo sarà legittimo, cioè ha perso, va bene, ma sì, certo aveva detto mi ritiro a vita privata, ma chissà, Veltroni doveva essere in Africa, cioè, per carità. Cioè. Però... ma non molla quei toni da spocchioso, da so tutto io, da questa retorica quasi ducesca alla fine, quella frase roboante che finisce... Non li molla. Ha sbagliato una cosa Renzi, oltre a tutto quello che ha sbagliato, ma a porsi, uno si pone con umiltà e dice proviamo. Allora la gente forse dice ma invece lui vuol fare piazza pulita e quindi Perina è così, cioè Renzi vuole, non vuole fare prigionieri, per usare un'immagine molto dura politicamente parlando. Certo che gli piacerebbe, ma questa è la sua natura, il suo carattere, anche il motivo per cui Renzi all'inizio della sua avventura è piaciuto tantissimo a tanti, perché rottamo di qui, gli italiani un po' gli piace quest'aria da guascone di quello che arriva e dice aggiusto tutto io, io le idee per tutti eccetera. Noi abbiamo passato 2 anni in cui c'era una totale assenza di critica verso qualsiasi comportamento di Renzi, dei suoi e del renzismo. Adesso è un po' un tiro al bersaglio, tipo un po' da Luna Park. Io trovo che in tutti e due gli atteggiamenti ci sia qualcosa di poco equilibrato, no? Era poco equilibrato prima, quando l'intero partito suo e tutti gli osservatori stavano zitti, è un po' equilibrato adesso, insomma, con questi nuovi nulla lucente, insomma. No, vabbè, ma un po' questa propensione di un certo tipo di ceto politico del sud di essere i famosi intellettuali della Magna Grecia, no? Cioè facessero i politici noi poeti. No, però mettetevi l'animo in pace, cioè Corona si mette l'animo in pace, cioè, Renzi tornerà a capo del Partito Democratico, cioè, lo danno al 50%, non è che Orlando e Emiliano. Dai. Se torna che torni, è una cosa democratica, come si usa dire. O di democratura, se lo votano, perché no? Poi vediamo se va al Parlamento, lo dovrebbero votare poi. Sì, tornerà a capo del Partito Democratico, poi ci sono le elezioni e lì sarà un'altra. Benissimo, cosa credete che poi il Partito Democratico cambierà? È la solita minestra lì. Se si gira è come un vortice nelle pozze dei torrenti. Però Corona è in crisi perché lei votava il Partito Democratico, adesso chi vota? Salvini ho sempre votato a sinistra. Cioè è scissionista. Ma cosa voto? Voto quelli lì. Bersani. Bersani ormai anche lui a furia di smacchiare diventa impallidito. Cioè, Ragazzi, chi rimane a sinistra? Ventola no, non no, c'è più. Non so chi votare, sinceramente. Appunto, questo detto è in crisi, Perina, è in crisi. Ma nessuno sa più chi votare. Non è che il caso di Corona è un caso isolato. Anche a destra e al centro, a sinistra. Sì, vero. Diciamo, c'è una grande... Ci sono, penso, centinaia di migliaia di elettori che andranno alle urne e diranno boh, fino all'ultimo momento, ma che voto? Dove la metto sta crocetta? Perché... è un problema di tutta la politica italiana, ne ha fatte troppe, sono state cambiate troppe bandiere, sono state fatte troppe giravolte e le persone non, in generale non si fidano. Per esempio l'ultima, oggi se uno legge il Corriere c'è Umberto Bossi che critica Salvini, dice la Lega così è un disastro, ma che ci fa a Napoli per prendere i voti di 4 fascistoni, la Lega è per il Nord. Esatto, non conteranno nulla. Ci hanno provato anche alle europee, la Lega, a prendere voti al sud, non ha preso quasi niente in quasi nessun posto del sud. Dal punto di vista di Bossi io lo capisco, quello aveva fatto il partito dell'indipendenza padana ed è ovvio che è chiaro, sì, è un po' arrabbiato. Per concludere con il pensiero lombrosiano, che a me piace tantissimo, perché Mauro Corona è lombrosiano e io adoro questa cosa. Sono lombrosiano perché basta guardarli in faccia alcune persone. appunto. Emiliano, lombrosianamente parlando, come Emiliano, cozze a parte, mi piace anche. Se vi dico la verità, se dovessi andare alle primarie, voterei Emiliano. Voterei Emiliano perché mi ha anche qualcosa che mi ha insomma mezzo convinto, certamente non voterei quell'altro che come si chiama Orlando. Voterei Emiliano, ma cosa ha convinto? La barba l'ha convinto? No,